Grazie Guagnù, io sono sciamano, faccio rap militante politico, vengo da Taranto. Vabbè, sono più legato alle questioni politiche e sociali, la questione della musica è venuta dopo, gli arresti di Genova del G8 2001, sappiamo tutti quanti quello che è successo, è inutile che ci ripetiamo. Come diceva Peppe, ci sono un sacco di appuntamenti per varie questioni, aggressioni, tentati omicidi, sparatorie, bombe. Io vorrei soltanto capire sta cosa, quando poi arriverà il momento nostro di aggredire chi dalla mattina alla sera ci continua a togliere i posti di lavoro, la scuola, la sanità e tutto quello che sono, tutti quelli che sono i nostri bisogni. Shaman and Nance, dedicato a Ciccio Svelo. Non aprire bocca con nessuno quando ti chiederanno se combatti per qualcosa o per qualcuno. Difendi, diffondi la tua voce oltre il confine, libero di parlare, libero di apparire. Sfiora quella linea sottile, quello che ti permette di vedere e di capire. Allora sceglilo tu da che parte vuoi stare. Chiedi la messa, ancora voglia di gridare. Sceglilo tu dove che vuoi andare. Chiedi la messa, ancora voglia di volare. Io mi incasserò, respingerò, resisterò, combatterò, scivolerò, mi alzerò, respirerò ancora un po'. Allora dai, non te la prendere, se ti chiamo qualunquista non pretendere. C'è una grande differenza tra chi parla in generale e chi propone una resistenza mondiale. Dovremo salvare il pianeta dai possibili attacchi di Vega. Sembra quasi un cartoon, ma di mezzo ci sei proprio tu. Sei quello che pensi, sai quello che fai. Stronzi siamo noi, ma non moriremo mai. Passa la staffetta, c'è un mondo rosso che va di fretta. Oltre la vita c'è solo morte che mi aspetta. Ti voglio bene ma di te non so che farmene. Sei al mio fianco oppure sei un'immagine. Io che ho creduto che un bisogno avrebbe unito. Fanculo alla tua idea e viva il pueblo unito. Moshe Wem, iso brutto e tu si vuoi. Mei mei, Moshe Wem, iso brutto e tu si vuoi. Mei mei, Moshe Wem, iso brutto e tu si vuoi. Mei mei, Moshe Wem, iso brutto e tu si vuoi. Essere o non essere, certo che è un teorema. Se diventa un problema che si confonde col sistema che ogni giorno mi propone un modello. Il portabello, il carosello, ma guarda quanto è bello. Presenta il tuo spettacolo all'interno di un castello, vestito da menestrello, fra ballante, cantante, improvvisando uno spettacolo divertente. Per il presidente che acclami deficiente, tutto applaudire a chi non parla mai di niente. Chi pensa di aver raggiunto lo scalino con la pancia piena, seduto sul trenino, davanti e da dietro, servito e riverito. Con il turbante un diamante e un cazzo di infradito. Se ben vestito una babba borghese, tu non hai problema quando arriva a fine mese. Picce, quando puoi mangiare, quando puoi lavorare, quando nella tua vita hai una casa che spartire con. Ribellare, conquistare, battagliare, influenzare, costruire, collettivizzare. Dal profondo del tuo interno, quando vivi ma contento, quando fuori è tutto spento, tu ti accorgi del lamento. Tu che fai? Sempre di scuse, con il gatto vale fusa, tu sei sempre di fidenza, sarà mica il presidente con lo sguardo seducente. Ma chi sei? C'è chi canta, c'è chi balla, c'è chi piange, c'è chi ride, c'è chi vive e sopravvive sotto casa del padrino. Io lì vi aspetto, per chi non lotti in questa terra non merita rispetto. Ehi me, Moshe Wem, iso brutta e tu si vuoi. Mei mei, Moshe Wem, iso brutta e tu si vuoi. Mei mei, Moshe Wem, iso brutta e tu si vuoi. Mei mei, Moshe Wem, iso brutta e tu si vuoi. Ti voglio bene ma di te non so che farmene. Sei al mio fianco oppure sei un'immagine. Io che ho creduto che un bisogno avrebbe unito. Fanculo alla tua idea e viva il pueblo unito. Ti voglio bene ma di te non so che farmene. Sei al mio fianco oppure sei un'immagine. Io che ho creduto che un bisogno avrebbe unito. Fanculo alla tua idea e viva il pueblo unito. El pueblo unido. El pueblo unido. Che bello. Vabbè, comunque era pure un brano dedicato contro l'indifferenza, no, della gente. Oggi girando un po' per Gallico, il corteo, Ho visto molte finestre chiuse e quindi diciamo che c'è una sorta di indifferenza, ma questo avviene anche nelle nostre città. Io vengo da una città dove i morti di tumore per via dell'IRVA sono più la gente che ci lavora all'interno. Cioè 10.000 ne lavorano all'interno e ne muoiono 2.000 all'anno e 4.000 se ne ammalano durante l'anno. E quindi non può essere paragonato il prezzo con la vita appunto di questa gente. E quindi anche noi abbiamo fatto dei cortei all'interno dei quartieri nostri, che sono i tamburi, che è vittima appunto della fabbrica, è proprio legata alla fabbrica, e non c'è stata risposta comunque, no, da parte della gente, perché molti continuano a dire: se non c'è l'Ilva la gente doveva lavorare. Ma l'alternativa, se vogliamo, la riusciamo a trovare contro chi specula appunto sulle nostre vite, portando comunque alla morte. Anche cominciamo col discutere, no? Come farle queste cazzo di barricate? Capirci tutti quanti insieme, capire dove realmente vogliamo arrivare, perché è impensabile che la gente si debba ammazzare perché non arriva più a fine mese. Chiaramente noi nel sud, come mi diceva un regista che è venuto a Taranto a fare un film, si chiama Ruggine, lui è di Padova, non mi ricordo, comunque del nord Italia, mi diceva, mi parlava un po' della crisi, no? Fatto, ma voi come la vivete la crisi nel sud? Ha detto, fratello, non sono 5.000 anni che stiamo in crisi qua. Siete voi che dovete capire come cazzo dovete vivere, cominciare a capire come abbiamo vissuto noi per 5.000 anni e come continuiamo a vivere. Minuto è la rockstar, diciamo, lo spettacolo, diciamo, del, no? Minuto, non puoi salutare tutti, sono troppi, poi lo farei con calma prima che partiamo. Il prossimo brano si chiama Spacciatore, l'abbiamo scritto contro gli spacciatori di eroina nei nostri quartieri, che poi sono gli stessi che magari vengono a fare queste azioni infamanti qua. Dedicato alle Black Panthers. C'è io, obbio, ti ho visto che mi sei tremendivo, ma se ci sono io sono figlio di un Tarantino, che anche per tenere sulla mente la surgari, che spacca e metto solo, fa che manca sono Gesù Cristo in persona. Ma che pensi che quello che ti circonda si può essere comprato come la vita delle persone, come qualche sciagurato, quando decide che per pararsi il proprio culo debba ammazzare i nostri fratelli o le nostre sorelle, che puoi ricomprarsi la roba e vivere nel mondo più bello, spendono tutte le loro ricchezze riducendosi una pezza e mette due modi fra qualcun altro se la spassa, come se la cosa più importante fosse l'osso da spolpare. Che cazzo me ne frega a me di quanto vuoi campare, tanto se non sei tu e qualcun altro a scattare, e credimi non ho più voglia di sopportare chi gestisce l'illosco capitale, che si chiamano malavito o controllo legale, sono sempre gli stessi porci a comandare. E come posso fare io differenza da che grossista che è seduto in presidenza? I maga preoccupato per Chester Galera, tanto quando gli sei sempre un stesso massiera, ma che chiedi per spaventarmi, basta mostrarmi i due gradi che ti hanno affibbiato, che ti danno il nome di pregiudicato, che basta una mente e uno sguardo sbagliato per farti diventare un toro scatenato. Ma ricordati che il tuo sarà sempre un losco lavoro a mangiare sulle spalle, sulla vita di coloro che hanno scelto il modo più tranquillo di campare. Io incomincio a sparare, spacciatore non poliziotto non non non maga caduca stasito fuori d'Oriona, spacciatore non poliziotto non non non maga caduca stasito fuori d'Oriona, spacciatore non poliziotto non non non maga caduca stasito fuori d'Oriona, spacciatore non poliziotto non non non maga caduca stasito fuori d'Oriona. Yes, da qua. Grazie. Il problema è che gli spacciatori e questi uomini di merda continuano a resistere nei nostri quartieri. È dovere nostro continuare a resistere più di loro. Il prossimo brano si chiama Munnezza e parla di discariche abusive e non di rifiuti speciali che vengono introdotti all'interno dei nostri territori. Shaman dice quando vuoi. Ancora non si sa come funzionerà risolvere in Italia l'emergenzialità, che se ne parli, se ne discuta, mi sembra di vivere con i tubi da rifiuti. Lo 100% il rischio è imminente, la colpa del sistema sì, ma anche della gente che delega un irresponsabile, che è responsabile di quel mondo insostenibile, super blindato, indistruttibile, agganciato ad un potere invisibile, sempre leggibile, troppo possibile, scardinali da quel ruolo impossibile. Voi che spingete, voi che credete, troppo accecati con questo soldi non vedete, non vi accorgete, ma lo sapete, che dei rifiuti le compagne sono piene. Puzza puzza ambiguità, tanto veleno da sotterrar. Puzza puzza ambiguità, coloriamo le città. Puzza puzza ambiguità, nascondendo la verità. Puzza puzza ambiguità, lo stronza gala prima o poi verrà. Ti piacerebbe volare su una nuvola e pisciare in testa ai capi cupola, scegliere un'arma come in un duello e buttare a terra tutto il castello, difendere il futuro cominciando dal presente. La minaccia di un passato oramai imminente arriva sotto casa, nessuno sa niente. Ieri ero re, oggi ho presidente. Ti piacerebbe volare su una nuvola e pisciare in testa ai capi cupola, scegliere un'arma come in un duello e buttare a terra tutto il castello, difendere il futuro cominciando dal presente. La minaccia di un passato oramai imminente arriva sotto casa, nessuno sa niente. Ieri ero un re, oggi ho presidente. Quello che si eleva è un grido di battaglia che rivendica con la appartenenza ad una terra, quella terra che per anni è sfamata da gente, che per me sa tutti quanti di campa naturalmente. Ma in tutta questa storia non c'è nulla di nuovo, se Cortale non risponde morirà di tumore. La stessa malattia che uccide Tarantini, colpendo tutti quanti dai più grandi provincini. Tu per scegliere tra uno ai polmoni, uno del sangue o un intestinale, uno al cervello, uno al pennello, uno alla bocca o la spina dorsale, uno alla mammella, uno alle ossa, uno alla vagina o da sperimentare. Se prendi quello giusto, non ti lamentare, neanche Gesù Cristo ti potrà salvare. Puzza puzza ambiguità, tanto veleno da sotterrar. Puzza puzza ambiguità, coloriamo le città. Puzza puzza ambiguità, nascondendo la verità. Puzza puzza ambiguità, lo stronza gala prima o poi verrà. Ti piacerebbe volare su una nuvola e pisciare in testa ai capi cupola, scegliere un'arma come un duello e buttare a terra tutto il castello, difendere il futuro cominciando dal presente. La minaccia di un passato oramai imminente arriva sotto casa, nessuno sa niente. Ieri ero un re, oggi ho presidente. Ti piacerebbe volare su una nuvola e pisciare in testa ai capi cupola, scegliere un'arma come in un duello e buttare a terra tutto il castello, difendere il futuro cominciando dal presente. La minaccia di un passato oramai imminente arriva sotto casa, nessuno sa niente. Ieri ero un re, oggi è presidente. Lo garantiscono, lo garantiscono, lo garantiscono, lo garantiscono, lo garantiscono, lo garantiscono, lo garantiscono, lo garantiscono, lo garantiscono, lo garantiscono, lo garantiscono, lo garantiscono, lo garantiscono. Non garantiscono, non garantiscono, ma tutti questi soldi dove cazzo finiscono? Finiscono, finiscono. Grazie. Una sorta di stanchezza popolare, vabbè, normale, stamattina alle 6 che siamo in giro. Però per il resto, quando sono queste cose, va sempre bene. Sempre poco viene con c'è ragazzi, saluti tutte le persone, i compagni, saluta prima di tutte, tutti i compagni, tutti, tutti sono tutti amici, tutti i compagni con noi ragazzi, di avere la possibilità di essere compagni con noi, tutta la possibilità di essere compagni con noi. Grande minuto, un applauso. Diceva il compagno, giustamente, noi siamo pensionati con 500 euro al mese e non ci arriviamo. Però ho detto, vabbè, noi non prendiamo neanche le 500 euro al mese, quindi sta diventando un problema di tutti. Questi sono gli ultimi due brani, dopodiché lascio lo spazio a Massimo Zaccaria che fa teatro politico. Volevo ringraziare i compagni e le compagne del Cartella, ma i compagni di Palermo, di Caserta, di Napoli, di Messina. Aiutatemi perché non me li ricordo, sono venuti da tutto il sud, anche da Milano qualcuno, da Monza, eh? C'è Beccaccio da Milano, che è tarantino però, immigrato là. Ha ricevuto qualche cosa? Fa teatro, no? Giustamente, fa il mimo, no? Della... Posso, due canzoni ancora, posso? Se vuoi, se vuoi no, se dici no. Io no! Possiamo fare altre due canzoni e poi ce ne andiamo? Se volete, chiaramente, se volete. Questa è un po'... Questa qua si chiama L'involimo de voi, che significa ne vogliamo di voi. L'abbiamo cantata oggi nel corteo, che in pratica è dedicata ai disoccupati che a un certo punto della loro vita si devono impegnare, andare sotto il comune e incendiarlo. Chiaramente non la prendete... Prendetela così, tra virgolette, sta cosa, magari c'è qualche poliziotto era nascosto dentro l'albero che sta fotografando. Vabbè, mi assumo la responsabilità, se volete, dopo il concerto. Ciao Vananza, pe, quando vuoi. DJ Brusca, ai controlli. A Salvatore De Rosa e a Claudio. Se dici che avatia in denuncia Atena, però vedete buona avatia che avadonna. Do tre mesi contratte da Madonna, do tre mesi sto vicino da mantenere la sanità, la fitta non ci puoi pagare, allora tu cominci a pensare che forse che fa una rapa, papa, pina, gomba. No, no, ya, così, gabe, che quindi che voce arabina stai in guaiata, sì, no, stai più in guaiata da te. E se pensiamo che una cucchiamo tutti insieme, che creiamo l'azione, so problemi da disoccupazione. Quando si pensiamo 4, si 5.000, a pensiamo comune, è poveri, ma ce ne è so, a fatia, ne vogliamo da buia, ne vogliamo da buia, ne vogliamo da buia, ne vogliamo da buia, ne vogliamo da buia, ne vogliamo da buia, ne vogliamo da buia, ne vogliamo da buia. Hanno speso 950 milioni di euro, faccio sta cazzo da cartel. Però c'è per dita buena, quando è sempre la stessa bandiera. Mo, non è che qualcuno tenga un pensiero, perché ha fatica a sta ognuna. L'importante è che a tarda nostra, la cessa si sente una signora. E quando tutti insieme a Magancia, ci vuole costruire qualche cosa in Calabria, gomba. Siamo una camanana, siamo una parigiana, siamo una ragionana. E che vedete come che fai, in un futuro non posso fare, non ci posso fare un figlio, perché c'è la gamba. Shout out tutto quanto che so che è del play. Non sarà di bello Berlusconi o D'Alema. Ecco chiamano tutti insieme, diamo gamma su sistema. C'è la mascella, c'è una voce, c'è la mascella, non c'è una scena. L'importante è che rimaniamo con le piede in terra. Ce ne cochiamo tutto quanto a noi, a voi non fa pensare proprio. Ne vogliamo da voi, ne vogliamo da voi, ne vogliamo da voi. Ne vogliamo da buia, ne vogliamo da buia, ne vogliamo da buia, ne vogliamo da buia, ne vogliamo da buia. Io sono qua DJ. Grazie. Grazie alle compagne e ai compagni che stanno lavorando nel bar, eh. Non ci dimentichiamo nessuno. Però la birra è un po' più fresca. Beh, non è una critica, beh, però cioè, no, alcolizziamo qua. Grazie comunque, questa è poi la resta una bella versione, hai visto? Questi mo hanno imparato il Tarantino, perché c'era qualcuno che diceva, sai, puoi mettere la traduzione del Tarantino all'interno, hai fatto scusa, se scopo un processo rivoluzionario parte da Taranto, deve essere obbligo tuo arrivare là, che già il Tarantino lo devi conoscere, no? Quindi già, da parte mia una cosa la sto facendo, grazie comunque, questo è l'ultimo brano, poi vi lascio, compagni. Numero so, questa qua è dedicata a un personaggio pubblico che a Taranto, l'ex sindaco, non facciamo né nome né cognome, Rossana Di Bello, ex Forza Italia, si è rubata una finanziaria, tutti i soldi destinati per le questioni sociali, per il lavoro, vabbè, queste minchiate così. Comunque sono spariti 950 milioni di euro a Taranto, nessuno sa che fine hanno fatto, noi lo sappiamo chiaramente in che tasche sono arrivati. Chiaramente questa qua forse è indagata, cioè, però è libera di circolare. Poi Minuto si alza la mattina, Minuto è lui, no? Dice, posso rubare una mela? Chiede pure, me la posso rubare una mela? E qua dice, è l'arresto, 30 anni, no, ma no, 30 anni. 25-30 anni, ciao Ananasa, allora, numero so. Grazie numero a tutti. So. Numero so. Uè, numero, numero so. So. Numero so. Numero so. Numero so. Uè, numero so. Il buongiorno, si vede dal mattino, la passa fuori dal casa già la chiama dalla latrina. Vie pericolanti, balconi barcollanti, l'illegalità qua fa passi da giganti. Nell'uva da jacket, nell'uva du cazzon, piega tra mandaga trovo con la benedizione. Allora no, no, non avranno signore per il mio posteriore, non avrà l'ispirazione, ma una giusta dose per rabbia e ribellione. A cieca battaglia ne basta, vivere in altre mura, con quelli che non può parlare, con quelli che non può mangiare, con quelli che qua lotta, non si può piscare, con quelli che non può vedere, con quelli che non può saldere, con quelli che mi sa stare fra. Non si può muovere, ma chi da gango non sa domani non vince, ma chi ti cade una guerra che per pensare come a me. Numero so. Uè, numero so. Numero so. Uè, numero so. sei disoccupato e hai intenzione di lavorare, il palazzo di città tu dovresti contattare. Ci sarà un operatore che ti saprà indirizzare per possibile colloquio cosa poter frequentare. Loro ti diranno come fare a rubare, magari specializzando il tuo intelletto di criminale. 8 euro a Pacumazza, o tu essere pronta a viaggiare. Vitto, alloggio, lavatura e stiratura, questo pende la capogira, ma che dica la paura, che farebbe resuscita, che supera il confine con l'aldilà, passando per di qua, sotto forma di precarietà, facendo malo sangue da sta cazzo di città. Ma quando ti va ancora va su puttà, prima che si sfiori l'annunciata tragedia. Numero so! Wey, numero so! Numero so! Wey, numero so! L'italiano vecchio a letto, c'è complicità. Mi piace mantenere una certa originalità. Ce ne piace stupita, comincia a pensare. Magari a te ti serva, per te identifica. Cagli e qualotta, li pop e presaggi. L'importante che capo arrivano i nostri messaggi. Ritmo e parole fanno grande un'emozione. Partecipa anche al tuo processo che ti trasformaziona. Noi è competizione, ma è rivoluzione. Noi è l'alienazione, ma è alimentazione. Trasunda magra e guida senza pena. Mi te la scendura per l'immagine, ma vina reta. Tutta la volta che suena, tutta la volta che sueva, tutta la volta che preva, risolvere il problema, stringe la tinta, spizza la catena, quando da serve lei le marisce sto volena, tutta la barca sveglia, tutta la barca sveglia, tutta la barca prima, a risolvere il problema, stringe la tinta, spizza la catena, quando da serve lei le marisce sto volena, numero so! Wey, numero so! Numero so! Numero so! Numero so, numero so, numero so, numero so, numero so, numero so, numero so, numero so, numero so, numero so, numero so, numero so, numero so, numero so, numero so, numero so, numero so, numero so, io sto con il cartella, perché il cartella sta con noi. Grazie, voglio alla prossima. Dice Brusca ai controlli, minuto ballerino, sciaman. A Giovernuto, beh, se volete acquistare il CD Pezzo Popolare Sopravvivere, si chiama il disco, 5 euro, 4 euro a me e 9 euro a Manuda, per le sigarette, scherzo, grazie, voglio alla prossima.